X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. La Libia resta di grande attualità soprattutto per l'Italia, che deve affrontare il problema degli sbarchi. E infatti solo negli ultimi giorni con le operazioni Mare Nostrum abbiamo accolto 3.300 migranti. La Libia è il paese chiave per gestire e sostenere i flussi di migranti che arrivano dall'Africa e dai paesi arabi in guerra. La Libia è un paese che dopo l'uccisione di Gheddafi nel 2011 è fuori controllo, è in mano a 40 tribù che si sono spartite le zone strategiche, il porto di Misurata per gestire appunto il traffico degli esseri umani, i pozzi di petrolio fondamentali per il rifornimento energetico anche dell'Italia, l'acqua, le città, la sicurezza della Libia. 40 tribù che Gheddafi governava con metodi lontani da quelli democratici, ma aveva trasformato la Libia in un paese importante per l'Occidente e per il futuro dell'Africa. Io l'ho incontrato a Tripoli, ho fatto un faccia a faccia con lui nel 2004, col colonnello, sotto una tenda, alle spalle c'erano i resti del palazzo dove viveva Gheddafi fino alla notte in cui venne bombardato da Bush Senior. Ecco, risentirlo adesso può essere interessante per fare delle riflessioni. Colonnello, Berlusconi è stato il primo leader occidentale che lei ha incontrato dopo la fine dell'embargo. Ecco, perché proprio Berlusconi per primo? Libia e Italia ora sono paesi amici, sono vicini e dirimpettai sul Mediterraneo. I nostri rapporti sono molto buoni e anche i governi che hanno preceduto il nostro amico Berlusconi hanno compiuto degli sforzi enormi in ambito internazionale a favore della causa libica. Era perciò nostro dovere accogliere e dare il benvenuto al presidente del governo italiano e ringraziarlo per la posizione dell'Italia a fianco di una causa giusta, quella libica. È il segno di una nuova era di rapporti fra Italia e Libia questa? Certamente. Ma è vero che esiste a livello internazionale un po' di invidia per questo rapporto privilegiato fra Italia e Libia? Certo. E soprattutto da parte di chi? Da tutte le parti. Colonnello, l'uomo che ha fatto forse più di tutti, quando nessuno ci credeva, per riportare la Libia nella comunità internazionale è stato Romano Prodi, che era allora il presidente della Commissione europea. Che ruolo ha avuto Prodi nella vicenda del riavvicinamento della Libia alla comunità internazionale? Senza dubbio Prodi ha giocato un ruolo molto importante. Noi libici lo ringraziamo e apprezziamo molto questo suo ruolo. La sua posizione nella Commissione è stata molto importante perché era utile anche alla causa libica. Ma e per lei personalmente Prodi cosa rappresenta? Senza dubbio è un amico, un caro amico. Ci capiamo molto. Ora è una personalità di livello mondiale. Senta, ma in Italia qual è la città, il posto che le piacerebbe di più visitare da privato cittadino? Io prima di tutto voglio visitare il popolo italiano. È un posto, no? Roma, Firenze. Quando arriverà il momento della visita stabiliremo quale. Parlando di cose concrete, lo diceva tra lei, tra Italia e Libia ci sono questioni aperte: il risarcimento per i danni di guerra che la Libia chiede e il controllo dei clandestini che partono dalla Libia e invadono prima l'Italia e poi l'Europa. Ecco, partiamo dai risarcimenti. Quanto riguarda la dichiarazione firmata dai due paesi, ognuno deve rispettare la sua firma e i suoi impegni. E quindi l'Italia deve fare questa grande autostrada, questo è il gesto, il grande gesto che lei chiede all'Italia? Un'autostrada? Questo è un passo importante per la messa in atto della dichiarazione congiunta. Un punto di partenza, insomma. Sì, è un punto di partenza. Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, noi soffriamo questo flusso di uomini dall'Africa subsahariana verso il Nord Africa, in particolare verso la Libia e l'area del Maghreb. La Libia da sola non può bloccare i milioni di persone che avanzano dall'Africa. Colonnello, però si dice che la Libia fa poco per impedire queste partenze. In Europa e in Italia si pensa questo. No, questo non è vero. Noi innanzitutto vogliamo impedire che l'immigrazione entri in Libia, ma certamente la Libia non può essere il guardiano delle coste europee. E innanzitutto bisogna riconoscere che la questione dell'immigrazione è fuori controllo per tutti. Colonnello, l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU parla di gravi violazioni dei diritti umani in Libia. È vero che c'è questa violazione o no? La Libia è un paese che gode di una democrazia popolare diretta. La Libia è il paese dove non esiste alcun prigioniero politico o di opinione. E sfido chiunque a dimostrare il contrario. E quindi sfida l'Alto Commissariato? No. Sì, esattamente. E è vero che lei è favorevole all'abolizione della pena di morte? Io premo sempre per l'abolizione della pena di morte. Però bisogna intendersi sul significato della pena capitale da abolire. Dobbiamo abolire le esecuzioni in tutto il mondo, sia che avvengano con i missili cruise o con gli elicotteri Apache o con la bomba atomica, con i carri armati, con i cannoni o con la corda del boia, con un'iniezione letale o con il gas. Tutti questi tipi di uccisione devono essere fermati. Tutte pene di morte. Deve essere impedita l'uccisione dell'uomo. L'abolizione non riguarda solo un caso. Perché ci occupiamo solo di quelli condannati dai tribunali e non di quelli che sono stati condannati a morte dalla fame o dai missili? Un uomo è un uomo. Colonnello, lei è l'architetto, è considerato l'architetto dell'Unione Africana. Quali sono i risultati più significativi di questo suo lavoro appassionato? Stiamo mettendo le fondamenta, creando le istituzioni, lo statuto, per garantirne il funzionamento. Abbiamo fatto già grandi passi avanti, ma non possiamo operare prima di creare le istituzioni. L'Europa può essere un partner privilegiato di questo progetto di Unione Africana? Questo è naturale ed è utile. Con chi possiamo essere alleati e collaborare se non con l'Europa, che è l'area più vicina a noi? Lei parla sempre della Libia, appunto, come punto di partenza del ponte, di questo ponte che deve legare l'Africa all'Europa. Ma qual è il punto di partenza? La prima cosa da fare, in concreto. Che gli incontri al vertice fra Unione Europea ed Africana vengano fatti regolarmente e ci siano gli strumenti per questa collaborazione. E questo a condizione di escludere la realtà asiatica. Per realtà asiatica intendo quella regione ora inserita nel processo di Barcellona, che è paralizzata a causa della presenza degli israeliani, dei palestinesi, dei turchi e di altri paesi arabi dell'Asia come la Giordania, la Siria, il Libano. Questi sono tutti paesi asiatici, non c'entrano nulla con la collaborazione tra Europa e Africa, non dovrebbero riguardare neanche il processo di Barcellona. Ecco, lei a proposito di Barcellona parla di spirito di tradimento dello spirito di Barcellona, e a tradire questo spirito sarebbero gli israeliani, i palestinesi e i turchi, perché vogliono usare le armi e non dialogare. Perché anche i turchi, dice? Questa gente si combatte per stabilire a chi appartiene la terra. Ad esempio, la lotta per ciò che si chiama Palestina è per stabilire se la terra appartiene agli israeliani o ai palestinesi, e dialogano con i cannoni, con gli aerei, con gli esplosivi, con le bombe. Questi non sono qualificati a sedersi al processo di Barcellona. Lei ha scritto 3 anni fa ai leader europei sconsigliandoli di far entrare la Turchia in Europa. Perché? Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Ma europei e turchi per me sono liberi di aderire o meno, non mi interessa. Ho solo detto quali saranno le conseguenze. Cioè quale conseguenza? Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. Senta, dopo la morte di Arafat, secondo lei la pace tra palestinesi e ebrei è più vicina o più lontana? Io so che gli americani e gli israeliani dissero che il problema era Abu Ammar quando era vivo. Ammar, cioè Arafat, è morto. La pace sarà realizzata? Lei ci crede? No, io giro la domanda a quelli che hanno detto che il problema era Abu Ammar. Ora la palla sta a loro. Colonnello, nell'attesa di vedere come si gioca questo pallone, lei nel suo libro bianco parla di Israatine come di una soluzione, lo strumento della soluzione del problema israeliano-palestinese. In breve, mi può dire qual è la sua idea della soluzione? Innanzitutto, questo spazio stretto tra il fiume Giordano e il Mediterraneo non potrebbe essere abbastanza capiente per 2 stati, anche se questi 2 stati andassero d'accordo. Figuriamoci 2 stati che sono in conflitto. Nel tempo la popolazione sta aumentando e il cosiddetto Stato di Israele non potrà esistere accanto ad uno Stato palestinese in espansione. E anche gli israeliani, per preservare la loro esistenza, non possono riuscirci per la presenza di uno Stato palestinese in Cisgiordania e a Gaza, oltre ad avere 1 milione di palestinesi all'interno del cosiddetto Stato Stato Israele. E quindi la soluzione qual è? La soluzione è la costruzione di un unico Stato democratico. Perché questo fanatismo etnico, linguistico, religioso? È una mentalità reazionaria odiosa. Perché discriminiamo tra ebreo e palestinese, tra arabo e israeliano? Questa è una mentalità reazionaria. Lei crede possibile che israeliani e palestinesi in un solo Stato, democraticamente, davvero ci crede? Ora sono integrati completamente. Dentro il cosiddetto Stato di Israele ci sono 1 milione di palestinesi. Non ci sono problemi. E d'altra parte la Cisgiordania e Gaza sono piene di insediamenti di coloni israeliani. Lo Stato palestinese vuole arrivare fino al mare, perché dicono che è la terra degli avi. Gli israeliani da parte loro vogliono la Cisgiordania perché la considerano la terra promessa. A meno che non si crei un unico Stato, le rivendicazioni continueranno da ambo le parti. Mix 24. Il suo rientro nella comunità internazionale ha coinciso con la sua rinuncia al programma di armamento nucleare, la bomba atomica. C'è un rapporto fra le due cose? Innanzitutto la Libia non era isolata dal resto del mondo. Aveva un problema soltanto con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna, che hanno imposto alla Libia un embargo che ora è stato tolto. Il contenzioso è stato risolto. Lei ha detto che è stata una decisione coraggiosa la sua di rinunciare al programma nucleare. Perché coraggiosa e non semplicemente giusta? Se dichiari che hai un programma per la costruzione di un'arma nucleare o di armi chimiche, se dichiari questo davanti al mondo, ecco, questo richiede coraggio. Coloro che possiedono queste armi non lo dichiarano, proprio per mancanza di coraggio. In cambio di questa rinuncia, ha avuto qualcosa in cambio dalla comunità internazionale? O è un fatto unilaterale? Noi abbiamo compiuto questo passo per una nostra convinzione. Vale a dire perché questo progetto non è utile alla Libia, ma anzi costituisce un pericolo e una minaccia all'integrità stessa della Libia. Però la comunità internazionale doveva ricompensare la Libia, deve incoraggiarla. Appunto, lei ha detto: sono deluso dalla reazione dell'Europa, degli Stati Uniti e del Giappone. È deluso perché non l'hanno compensata? La loro reazione è stata di tante buone parole smielate. Ma fatti pochi. Ma non c'è stato nulla di concreto. Nessun fatto concreto? Concreto, ma concreto. Vabbè, però, Inshallah. Lei che cosa si aspettava di concreto? Questi stati interessati al problema dovevano aiutarci, soprattutto coloro che si dicevano preoccupati della Libia. Gli Stati Uniti erano tormentati dalla possibilità che la Libia entrasse in possesso di armi di distruzione di massa e per questo si sono molto rallegrati della nostra decisione. È stata una carta vincente nelle ultime elezioni americane. Il 50% delle elezioni è dipeso proprio dalla carta libica, proprio per la nostra rinuncia al programma nucleare. E anche altri stati del mondo, come ad esempio il Giappone, che ha vissuto sulla pelle il dramma delle armi nucleari perché è stato distrutto dalla bomba atomica nella seconda guerra mondiale, e anche l'Europa che è così vicina alla Libia. Se veramente temevano che potessimo entrare in possesso di armi di distruzione di massa, allora la Libia avrebbe dovuto essere compensata. Vuol dire tecnologie di pace contro tecnologie di guerra, vuol dire convertire il programma nucleare verso scopi civili dopo che abbiamo deciso di abolire quelli militari. Lei ha parlato con l'Iran e la Corea del Nord, che sono gli altri paesi sospettati di avere un progetto nucleare, e ha parlato. Come è andata? Che cosa vi siete detti? Loro dicono: vediamo cosa otterrà la Libia dopo aver preso questa importante decisione, prima di seguire il suo esempio. Se la Libia non verrà ricompensata, dicono, nulla li incoraggerà a prenderla come esempio. E lei cosa gli ha detto per incoraggiarli e dire che invece conviene farlo lo stesso? Io invito tutti, israeliani, americani, francesi, inglesi, la Cina, la Russia, l'India, il Pakistan. Io invito tutti questi stati a distruggere le loro armi di distruzione di massa. Di seguire l'esempio della Libia, insomma. Si deve. Colonnello, l'Occidente si aspetta che adesso la Libia collabori attivamente nella lotta contro il terrorismo internazionale. Sarà così? La Libia sarà attivamente attiva contro il terrorismo? La Libia farà due cose, una morale e una materiale. La prima, presentare un vero modello dell'Islam moderato, non come quelli che rinunciano all'Islam per timore della guerra al terrorismo, né come quelli che adottano le teorie e le ideologie terroristiche. La Libia non rinuncia all'Islam per paura della lotta contro il terrorismo, né adotta ideologie estremiste e terroristiche. La Libia presenta il vero Islam. In secondo luogo, è dovere della Libia smascherare le ideologie islamiche, fanatiche e terroristiche che ci sono state ostili sin dall'inizio della nostra rivoluzione. Ci sono regimi islamici di destra, reazionari, conservatori e oscurantisti che ci sono stati ostili sin dall'avvento della nostra rivoluzione, proprio perché la rivoluzione in Libia presenta l'Islam vero, libero dal terrorismo, dalle forze reazionarie, dall'oscurantismo. Lei conosce bene il terrorismo internazionale. Pensa che Al-Qaeda abbia una possibilità di vincerla questa guerra? Se continuano ad esistere i regimi teocratici che prendono a modello il regime dei talebani e altri regimi esistenti nel mondo islamico, tipo l'Iran, regimi che hanno sostenuto i talebani, che hanno creato i talebani, questo tipo di regimi teocratici fondati su una concezione religiosa salafita, nel senso reazionario, saranno sempre la base per il terrorismo. E quindi? Si deve mettere fine alle ideologie oscurantiste e reazionarie. Ha detto talebani, ma pensa anche degli altri stati come l'Iran oppure no? Esistono regimi simili ai talebani. Non me li dice. Sono noti. Coloro che combattono il terrorismo li conoscono. Davvero anche per lei dopo l'11 settembre è cambiato il mondo? No, il mondo non è cambiato. Il mondo si è rivoltato, ma non è cambiato. Dietro l'11 settembre, secondo lei, c'è solo Bin Laden? Io considero Bin Laden semplicemente come un simbolo, perché il terrorismo ha delle cause profonde. Se non eliminiamo queste cause, ci sarà sempre un Bin Laden. Senta, colonnello, nel suo libro verde della rivoluzione, lei prevede terza via tra capitalismo e comunismo. Il comunismo è morto, il capitalismo ha vinto. Cosa resta della sua terza via? No, il capitalismo non ha vinto. È caduto il comunismo. Il turno adesso tocca al capitalismo. Alla fine vincerà il socialismo popolare, la democrazia popolare diretta, i congressi e i comitati popolari. Il Papa ha contribuito a far cadere il comunismo nei paesi dell'est. Oggi però è molto critico verso il capitalismo selvaggio e la sua deriva consumistica. Lei si sente in sintonia con questo Papa? Forse il Papa ha letto il libro verde. Adesso lo sviluppo per la Libia vorrà dire anche turismo. Un uomo del deserto come lei, come vede lo sviluppo turistico per la Libia? Gli esperti dicono che il turismo in Libia è molto promettente e che la Libia sarà il miglior sito turistico nel Mediterraneo, perché abbiamo 2000 chilometri di costa mediterranea, dove ci sono mare e sabbia puliti, non inquinati. In più, la Libia si inoltra molto dentro il deserto africano e questo non esiste in nessun altro posto del mondo. Ma lei prevede uno sviluppo armonico o selvaggio? Dobbiamo riconoscere che effettivamente la società libica non ha ancora raggiunto la condizione per poter assimilare il turismo. Però ogni cosa ha sempre un inizio graduale. 30 anni fa considerava il grande fiume, cioè l'acqua, più importante del petrolio per la Libia. Infatti in Libia l'acqua costa più del petrolio, più della benzina. È sempre così? È ancora così? Ho avvertito il problema dell'acqua a livello mondiale. Quello che voglio fare è contribuire affinché in futuro non scoppino guerre per l'acqua. Dobbiamo raggiungere una soluzione prima che arrivi una catastrofe. Ma per lei, personalmente, il deserto che cosa è? Il deserto, il Sahara, è pulizia, purezza, quiete ed è una delle grandi testimonianze di Dio. Inoltre è una fonte di diverse energie, dal petrolio all'acqua nel sottosuolo, al sole, alla sabbia, alle montagne, alle pietre stesse. Ma lei potrebbe vivere senza il deserto? No, la mia vita è intimamente legata al deserto. E ai suoi figli ha trasmesso questa passione per il deserto lei? Non credo, questa è una nuova generazione. Ma sua figlia, che è avvocato e fa parte del collegio di difesa di Saddam Hussein, lei è contento? è uno dei diritti dell'uomo, sia che lo chieda un uomo in carcere, sia che lo chiedano coloro che lo difendono. Ciascuno ha diritto alla difesa. Un imputato è innocente fino a che non viene condannato. Ma il fatto che sia sua figlia? Saddam Hussein si considera innocente fino a che una corte giusta non lo condannerà. Sono d'accordo, ma chiedevo se sua figlia, se lei è contento che sua figlia si affaccia all'avvocato. È la sua libertà. Naturale, è un suo diritto. Parlando di donne, in Libia erano la sua guardia scelta nell'esercito. È ancora così? No, non sono la maggioranza. È una guardia mista, uomini e donne. Noi non facciamo distinzione tra uomini e donne. Lei ha detto, sono contento della rielezione di Bush. Perché? Perché è con Bush che abbiamo concordato il programma di abolizione delle armi di distruzione di massa. È lui che ha promesso di ricompensare la Libia se si fosse liberata di questo programma. L'abolizione di questo programma è stata in favore di Bush. Noi sappiamo che con ciò abbiamo contribuito per il 50% alla sua campagna elettorale. La sua campagna? La campagna in favore di Bush. 50% come? Questa è stata una carta vincente, ha rappresentato il 50%. Politici, in termini politici? No. Sì, esattamente. Quindi lei si aspetta qualcosa di clamoroso, qualche colpo di scena durante il suo secondo mandato? Sì, adesso la palla è nella porta di Bush. Ok, lei aspetta. Senta, ma la teoria della guerra preventiva che ha portato Bush a colpire l'Afghanistan prima e l'Iraq poi, secondo lei è una strategia giusta? Dobbiamo rivolgere la domanda al presidente Bush per sapere il risultato dell'applicazione di questa teoria. Ma la sua opinione? Noi lasciamo all'autore di questa teoria di dirci che cosa ha ottenuto dalla messa in pratica della sua teoria. Ci deve dire se ha vinto o se ha perso per permetterci di giudicare. Insomma, se capisco bene, non è tanto d'accordo. Certamente. Mix 24. La storia. Donizetti era uno scrittore di musica irrefrenabile, non poteva stare con la penna a riposo e doveva scrivere musica. Donizetti credo aveva anche una, così, una capacità di una dimensione amichevole molto forte. È stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio del carattere, della gioia di vivere, della amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali. Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti. Voglio a casa mia, insomma. La cultura napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche, no? Quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato vestito e rivestito. L'8 aprile del 1848 a Bergamo muore Gaetano Donizetti, l'autore della Lucia di Lammermoor, dell'Elisir d'amore. In quelle stesse ore divampano i moti rivoluzionari che scuotono l'Europa. Il grande musicista non parteciperà però all'epica lotta dei popoli per la libertà. Eppure, è lo stesso Mazzini a scrivere che in Donizetti c'è più di un presentimento. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un musicista patriota, capace di infuocare gli animi degli italiani con il teatro musicale, con il melodramma. L'artista bergamasco diventa, nelle parole del padre del Risorgimento, una bandiera del pensiero e dell'azione per l'unità del nostro paese. Così scrive Mazzini. Chi scrive non sa di musica, se non quanto gli insegna il cuore o poco più. Ma nato in Italia, ove la musica ha patria e la natura è un concento,